24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8 e 16 minuti inizia la terza parte di 24 Mattino. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, in questo venerdì 29 maggio, di nuovo buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Ciao Maria. Buongiorno, buongiorno Simone, buongiorno ai nostri ascoltatori. Pare che mentre un po' tutti i paesi si aprono, l'oggetto dell'interesse sia come controllare, come verificare chi incontra chi, le cosiddette app di tracciamento. E qui è interessante vedere la strada diversa che hanno scelto Gran Bretagna e Francia. Oggi il Daily Telegraph ci racconta del caos che sta succedendo in Gran Bretagna, dove 25.000 esseri umani sono stati assunti per controllare e avvisare eventuali soggetti che hanno avuto contatti con dei contagiati. Però al momento il caos è totale, perché la piattaforma sulla quale tutto questo dovrebbe essere comunicato non funziona, e la responsabile, la baronessa Heving, ha annunciato che prima di un mese questo tracciamento, diciamo fatto con gli umani, non con un'app, non sarà perfettamente funzionante. Invece, sempre sul tracciamento, da lunedì in Francia sarà disponibile un'app che si chiama Stop Covid e consente di sapere se si è stati a contatto con un contagiato. Funziona con il Bluetooth e se due telefoni che la possiedono si incrociano a meno di un metro e per più di 15 minuti e uno dei possessori dell'app risulta positivo al test del Covid, tutti quelli entrati in relazione con lui o con lei, anche in una relazione non diretta, verranno invitati a fare il test. Questo da lunedì sarà disponibile, è volontario, non è obbligatorio, e secondo dei ricercatori di Oxford, se il 56% della popolazione francese utilizzerà questa app, sarà una bella botta, diciamo, alla lotta del Covid-19. Vedremo se avrà successo. Di cosa parleremo in questa puntata, appunto? Prima di tutto daremo un diritto di replica, per così dire, alla Regione Lombardia. Ieri abbiamo ospitato Nino Cartabellotta della Fondazione Gimbe, il quale ha lanciato delle accuse molto dure. A dire il vero, non le ha lanciate solamente alla Lombardia. Ha detto che in genere c'è qualche regione che fa un po' di magheggio sui numeri, ma in particolare sulla Lombardia ha detto, tra le altre cose, questo. Che in Lombardia si sono verificate troppe stranezze sui dati nel corso di questi tre mesi, soggetti dimessi che venivano comunicati come guariti alla protezione civile e quindi andavano ad alimentare il cosiddetto silos dei guariti, alternanza e ritardi nella comunicazione dei dati e nella trasmissione, che poteva essere giustificata nella fase 2 dell'emergenza quando c'erano tantissimi casi, ma molto meno ora, e paradossalmente i riconteggi sono molto più frequenti in questa fase 2. Cioè, è come se ci fosse la sorta di necessità, voglio dire, di mantenere sotto un certo livello quelli che sono il numero dei casi diagnosticati. Così Cartabellotta. Ospitiamo Vittorio De Micheli, che è direttore sanitario dell'Agenzia Tutela della Salute di Milano, epidemiologo, membro dell'unità di crisi della Regione Lombardia. Buongiorno De Micheli e benvenuto ai nostri microfoni, eccoci. Buongiorno De Micheli. Buongiorno a tutti. Eccoci qua. Allora, in pratica ce l'ha detto Nino Cartabellotta, ho il dubbio che i dati vengano modificati e forse proprio per tenere bassi risultati e consentire anche alla Lombardia di tornare totalmente alla normalità. Che cosa risponde? Beh, che se fossero stati manipolati probabilmente avremmo dipinto una situazione molto migliore di quello che abbiamo dipinto. Non siamo dei bravi manipolatori, perché quella, la sensazione dal punto di vista dei numeri è sotto gli occhi di tutti, no? Mi sembrano accuse veramente strampalate, nel senso che la Lombardia resta la regione dove l'epidemia è stata più intensa e ha una situazione dal punto di vista epidemiologico che non può essere ridimensionata con questi piccoli trucchi. Quello che bisogna invece sottolineare, diciamo, questo è un po' inaccettabile da un punto di vista di un medico che si occupa di epidemiologia, è invece lanciare delle accuse che inquietano i cittadini. La situazione in Lombardia, come in gran parte d'Italia, lo dicono i numeri dell'Istituto Superiore di Sanità, è una situazione sotto controllo, cioè la capacità del nostro sistema di accorgersi di un'eventuale ripresa e la capacità dei nostri ospedali, nel caso malaugurato riprendesse, di curare i malati, questa capacità in Lombardia, come in buona parte d'Italia, c'è, è assolutamente c'è, buona. Dice lei. De Micheli, ci faccia andare nel dettaglio delle accuse rivolte da Carta Bellotta. Partirei proprio dal tema guariti e dimessi. È vero che... Allora, chiariamo che dimesso dall'ospedale non vuol dire che uno è guarito da Covid-19. È guarito clinicamente, guarito, nel senso che non ha più i sintomi, però, deve essere controllato dal punto di vista microbiologico. Esattamente, vuol dire che può essere ancora infetto. Io la faccio molto semplice, sono un po' grezzo, però può essere così. Dunque, è vero che guariti effettivi e dimessi dagli ospedali sono stati comunicati come guariti dalla Regione Lombardia? Assolutamente no, è la Protezione Civile che somma questi due dati nel suo bollettino dalla Lombardia, questi due dati partono separati. E poi anche qui però mi faccia guardare le cose pratiche. Se anche fosse vero, questa cosa cambierebbe di poche decine di unità il calcolo giornaliero, quindi anche qui perché farlo se fosse vero? Comunque la risposta è no, dalla Lombardia i guariti partono separati dai dimessi, per sintesi di comunicazione la Protezione Civile li mette insieme, ma il Ministero quando fa i conti li tiene separati. E le comunicazioni, scusami Maria, mi permetti di restare un attimo su questo tema, le comunicazioni che vengono fatte quotidianamente, che sono state fatte quotidianamente dai vertici della regione su questo, cosa facevano? Tenevano separati i guariti e dimessi? Assolutamente sì, il flusso li tiene separati. Tant'è vero che in qualche modo il dottor Cartabellotti è riuscito a trovare i dati separati. Quindi l'accusa è solo quella di una sintesi, ma quella sintesi la fa la Protezione Civile e non la fa la Regione Lombardia. Maria, prego. Senta De Micheli, uno degli aspetti che ha creato un po' di dubbi, no, è la comunicazione dei dati dello scorso fine settimana. Il bollettino di domenica 24 maggio riportava 0 decessi, ma se non sbaglio il giorno prima i decessi erano stati 56 e lunedì sono tornati 34. Ci spiega come è possibile questo, diciamo, sbilanciamento da 0 a 34 il giorno prima 24? E anche perché il report dell'ATS bresciana, così riporta il giornale di Brescia, riferiva di almeno 2 decessi. Allora, come è possibile questo sbilanciamento di dati? Allora, intanto più i numeri sono piccoli, più possono fluttuare da un giorno all'altro per variazioni statistiche. Io è dall'inizio di questa pandemia che tutte le volte che qualcuno mi chiede ricordo che bisogna guardare le tendenze, non il dato puntuale. Sicuramente i nostri sistemi di registrazione sono imperfetti. Noi eravamo abituati a registrare le morti quando andava bene su base mensile, adesso lo facciamo tutte le mattine. Questo sistema, che non era creato per fare questa registrazione quotidiana, può sicuramente ogni tanto avere dei piccoli inceppi. È così, dobbiamo rassegnarci a questa verità. A Milano, quando avevamo un'epidemia grossa, avevamo, quando andava male, 20-25 casi per volta. Questa volta ne abbiamo avuti 25.000, mille volte di più. I nostri sistemi ogni tanto sbagliano perché stanno fronteggiando un'emergenza a cui non erano preparati. Mi dispiace per il dottor Cartabellotta, ma questi errori possono succedere e non bisogna metterci dietro delle malizie che non esistono. De Micheli, la questione dei tamponi. I tamponi diagnostici e i tamponi di conferma. I tamponi diagnostici sono quelli che servono a dire all'inizio che una persona ha Covid-19. I tamponi di conferma sono quelli successivi che servono a capire quando una persona è guarita oppure è ancora in corso di infezione e via dicendo. Questi dati sono stati messi insieme o la regione comunica solamente quelli diagnostici? Perché questo è strategico per capire quanti tamponi effettivamente si fanno. La regione li comunica di nuovo separatamente. Il sistema nazionale di monitoraggio, quel sistema creato dal Ministero della Salute, che guarda 21 indicatori, quindi non guarda solo i tamponi, comunque quel sistema lì conta solo i tamponi diagnostici, tant'è vero che il numero che io sono nella cabina di regia vedo ogni venerdì è diverso da quello che dice il dottor Cartabellotta. Quindi la regione manda i dati separati, le sintesi le fanno i comunicatori per ragioni loro, ma i dati che manda la regione Lombardia consentono delle valutazioni. Da quel punto di vista la regione Lombardia, diciamo, è messa più o meno in media nazionale, tanto è vero che sono 2 settimane che la pagellina cosiddetta della regione Lombardia è sostanzialmente analoga a quella di molte altre regioni. L'unica vera differenza, che non c'è ragione di nascondere perché sarebbe sciocco, è che qui l'epidemia è partita molto grande e ancora adesso ha dei numeri molto grandi. Però i dati di giovedì, cioè di ieri, danno per il secondo giorno consecutivo 2/3 dei nuovi positivi concentrati in Lombardia. Secondo lei sono giustificate le preoccupazioni di presidenti di altre regioni che temono appunto un contagio anche per i loro corregionali se dalla Lombardia ci fosse un pesante afflusso di lombardi in vacanza o in raggiungimento delle loro case? Allora, intanto in questa fase dell'epidemia i conteggi che sono più giusti sono dei conteggi settimanali, perché, lo ripetiamo ancora una volta, il dato quotidiano ormai può fluttuare per questioni statistiche. In ogni caso, in questa parte d'Italia, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Liguria, è concentrato, diciamo, circa la metà di tutti i contagi nazionali. E io credo che su questo debba fare una riflessione il Paese, non i singoli governatori. Se il governo deciderà di ripartire, tutte le regioni ripartiranno, perché il sistema nazionale di monitoraggio in questo momento non segnala un'anomalia né in Lombardia, né in Piemonte, né in Liguria, né in Emilia-Romagna. È una decisione, però io da questo punto di vista sono molto d'accordo, lo sto caldeggiando da alcuni giorni, è una decisione di carattere nazionale, perché le restrizioni non piacciono a nessuno, se colpiscono in maniera diversificata una regione rispetto all'altra sono ancora più ingiuste e intollerabili. Quindi io raccomando una riflessione di paese: se avere ancora così contagiati nel nord ovest del paese è un pericolo per tutta l'Italia. La pandemia ci ha dimostrato che i confini amministrativi il virus non li rispetta assolutamente. Quindi, a mio giudizio, qui c'è ancora un numero elevato di contagi, il Comitato Tecnico Scientifico ha dato le sue opinioni, i medici hanno dato le loro opinioni, gli altri interessi economici e produttivi in gioco diranno la loro, sarà una decisione, mi auguro, del governo e non una lotta tra le singole regioni, perché questo veramente è una piccolissima cosa rispetto al percorso che ancora ci aspetta. La pandemia non è finita, questa è la riflessione che mi amareggia un po' rispetto alle polemiche meschine di queste ore. Questo problema dei dati di 50 casi in più e in meno in Lombardia è veramente una inezia rispetto alla natura e alla gravità dei problemi che dobbiamo ancora affrontare nelle prossime settimane. La pandemia non è finita. Mi fa chiudere De Micheli con una domanda che riguarda la sua agenzia tutela della salute, quella di Milano. Cos'è questa storia? L'altro giorno sono arrivati degli sms ai cittadini. Quante persone hanno riguardato? Che gli dicevano: lei è un contatto di una persona che ha contratto Covid-19. C'è un po' di gente che è andata nel panico. A quante persone ha riguardato? Circa 400 persone . E purtroppo... vale la cosa che ho appena detto prima, noi non eravamo abituati a maneggiare numeri così grossi, sono stati scambiati due elenchi, lo so, è diciamo un errore fastidioso, dopo poche ore sono stati diciamo corretti, insomma hanno ricevuto un'altra comunicazione, tra l'altro la successione concreta non è proprio stata così, nel senso che le persone avevano ricevuto prima un sms che gli diceva che la negatività era dal loro medico, poi hanno ricevuto questa informazione contraddittoria e questa li ha un po' scombussolati, schiazzati, poi avete corretto, il caos regna sovrano, l'abbiamo raccontato anche quello che sta succedendo con questa piattaforma analoga, mi sa, quella che state usando voi in Inghilterra, ed è un casino anche lì. Ho detto casino, sì, non dovevo. No, io però invito diciamo di nuovo alla ragionevolezza. Stiamo fronteggiando un fenomeno di dimensioni imprevedibili. Gli errori possono essere possono essere all'ordine del giorno. È molto importante però utilizzare le notizie per imparare dai propri errori, non per gettare discredito su chi cerca di gestire al meglio i problemi, perché altrimenti da questo problema non ne usciamo bene. La pandemia ha bisogno di solidarietà, non ha bisogno di conflitto. Questo lo dico da chi controlla le infezioni da una vita. Per fronteggiare i virus, i batteri, ci vuole collaborazione tra gli esseri viventi, altrimenti vincono loro. Grazie, Vittorio De Micheli, direttore sanitario dell'Agenzia Tutela della Salute di Milano ed epidemiologo. Una buona giornata, ci fermiamo e poi parliamo con Iole Santelli, la presidente calabrese, che a differenza di altri governatori del sud dice: venite, non vi preoccupate. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Mattino. Iole Santelli, presidente della Calabria, buongiorno, eccoci. Buongiorno a voi. Benvenuta. Dunque, porte aperte della Calabria ai turisti. Porte aperte, e la Calabria li aspetta nella sua veste migliore. E credo che fare una vacanza in Calabria significa poi ritornarci sempre. Maria, prego. Beh, non ho dubbi, il mare è meraviglioso e l'ospitalità è tradizionalmente apprezzata. Senta, mi faccia capire quello che lei ha detto rispetto alla diciamo responsabilità di controllare chi è contagiato e chi no. Lei ha detto: il governo non scarichi sulle regioni di arrivo i controlli delle persone provenienti da zone in cui c'è stata una maggiore incidenza di contagio. Che cosa significa? Che chi viene da Lombardia e Piemonte deve essere controllato nella sua regione? No, non cosa intendeva dire? Non da Lombardia e Piemonte. Io intendo dire che laddove si dovessero rintracciare, ci auguriamo tutti che non accada, dei focolai, credo che non si possa parlare di regioni, ma eventualmente di zone. Se ci sono delle zone in cui si intracciano dei focolai, possono essere tranquillamente chiuse in zona rossa e controllare in partenza. Questo, non credo che si possa, neanche sarebbe giusto in questo momento, parlare di grandi territori e parlare di Lombardia in senso lato, Piemonte in senso lato o, ci auguriamo, non altre regioni. Ma ci saranno delle zone, se ci sono, e mi auguro di no, delle zone precisamente individuate, e da quelle evitare eventualmente e controllare le partenze. Quindi, zone molto individuate, ove ne dovesse esistere la necessità. Senta, quindi l'ipotesi del passaporto sanitario, che molti definiscono dal punto di vista scientifico, insomma, anche carica di dubbi, per essere gentili, insomma, non la convince. Guardi, no, perché noi abbiamo avuto un problema esodi, l'abbiamo già verificata quando abbiamo avuto questo tema, e effettivamente non era complicatissimo avere la possibilità di questo. Io dico che siccome parlo dell'ultimo, l'ultimo decreto che ha consentito di tornare alle proprie residenze, abitazioni, che aveva creato scompiglio ulteriore, perché era il terzo, io come Regione Calabria, penso agli unici, noi abbiamo fatto dei controlli a tappeto, abbiamo fatto i controlli sui treni, sugli aerei, abbiamo fatto soprattutto i controlli stradali con il 113 e con la prevenzione col 118. Abbiamo fatto oltre 6.000 tamponi. I risultati oggettivamente sono stati molto rassicuranti, perché abbiamo trovato pochi positivi, oltre 6.000 tamponi, 5-6 positivi. Però questo è uno sforzo veramente massiccio, non può essere ovviamente rifatto in un periodo estivo. Senta, Presidente Santelli, molti dei soldi, dei tanti soldi che arriveranno, si spera all'inizio del 2021, dall'Unione Europea, dovranno essere finalizzati alla modernizzazione del paese, in particolare alla digitalizzazione del paese, che significa anche modernizzare la pubblica amministrazione. Uno dei gravi problemi dell'Italia da 30 anni è che non siamo mai stati capaci di usarli, i fondi europei. Questo perché tanti negli uffici, anche regionali, non parlano inglese, non sono in grado di interloquire con Bruxelles e non sono in grado quindi di usarli questi soldi. Lei sta attrezzando la sua regione? Perché allora, quando i soldi arriveranno magari modernizzeranno anche la Calabria? Io non credo che sia un tema relativo a questa incapacità di interlocuzione o a un'assenza di professionalità, perché quasi tutte le regioni si avvalgono poi di consulenti, di quelle grandi, diciamo, delle grandi agenzie delle grandi agenzie che si occupano di queste cose. Il tema è diverso. Vincoli in uscita da Bruxelles molto pesanti, vincoli ulteriori messi dall'Italia, e questa è la cosa abbastanza incomprensibile. Se vuole, io parlo per la mia regione, ancora di più vincoli inseriti dalla regione stessa. Cioè, i programmi europei devono essere, io credo che debbano andare sul chiaro obiettivo, dobbiamo uscire dall'evangelizzazione del programma europeo, dove ci interessa solo la forma, che siano scritti nella forma europea, e dobbiamo capire realmente dove vadano a finire. Il tema più grosso che abbiamo nello spendere poi alla fine le risorse è un problema anche relativo al discorso infrastrutture. Con un codice degli appalti come quello che abbiamo noi, oggettivamente spendere i fondi è drammatico, perché la durata delle nostre procedure è incompatibile con qualsiasi fondo e con qualsiasi sistema di efficienza ed efficacia. Sì, dall'altra parte, Santelli, il tutto si scontra con un problema endemico di illegalità, e scusate se utilizzo un termine che spesso abbiamo utilizzato per altri motivi in questo periodo, endemico di illegalità nella vostra regione. Prova ne sia, mi permetta prego, Santelli, prego. Prova ne sia l'inchiesta delle scorse ore che ha portato, come ben sa, una serie di arresti, a una questione, il tema è proprio quello degli appalti truccati. Quindi da una parte è vero che bisogna accelerare le procedure, dall'altra parte no, c'è il rischio di allentare delle verifiche di legalità che sono particolarmente importanti. Scusi, io sono convinta che l'appiattimento burocratico, invece di creare legalità, crea corruzione, crea ambiti di corruzione. Più il sistema è immediato, veloce e trasparente, meno facilità ha l'inserimento della criminalità in tutti i luoghi. Non ci credo che l'appesantimento burocratico, ma non è che non ci credo io, diciamo la verità, abbiamo scelto questa strada da 20 anni, complichiamo sia le leggi appalti che i controlli, il sistema dei controlli, ma l'efficacia reale di trasparenza non l'abbiamo ottenuta. Troviamo un'altra strada, quella di procedimenti molto più veloci, ma anche molto trasparenti, più controllabili. Grazie. La richiameremo per vedere come va. Ci torneremo, ci torneremo. Grazie, Iola Santelli, presidente della Regione Calabria, grazie per essere stata con noi. E a chiudere, cara Maria, abbiamo una breve pausa. Allora prendiamocela adesso, perché poi parliamo, chiudiamo questa settimana con la questione dell'aspetto psicologico del lockdown. A tra un attimo. Mattino. Leggo un messaggio di un'ascoltatrice che è arrivato prima, quando accennavamo a questa questione, al fatto che avremmo affrontato l'aspetto psicologico del lockdown. Barbara, che dice: a parte la tragedia di chi non stava bene, dei morti, non so spiegarmi la sensazione di pace e di serenità che ho provato nel lockdown. Relazioni ritrovate, tutto più lento e tranquillo, e ora non ho voglia di uscire né di tutte le relazioni e le serate di prima del coronavirus. David Lazzi, presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, responsabile tra l'altro del servizio psicologia azienda ospedaliera di Terni. Tra l'altro ieri so che ha incontrato il ministro Speranza. Lazzari, buongiorno, eccoci. Sì, salve, buongiorno a tutti. Eccoci qua. Buongiorno. Maria, prego. Senta Lazzari, ho una mia amica che da 70 giorni non esce da casa e non ha nessuna voglia di farlo, anche se ormai potrebbe tranquillamente. È la sindrome della capanna. Ci spiega che cosa è intervenuto in molti di noi che dicono, appunto come la nostra ascoltatrice Barbara, ma io stavo bene prima. Guardi, il discorso della misura nelle dinamiche psicologiche è molto importante, nel senso che abbiamo definito questo tempo del lockdown un tempo per alcuni versi perso, ma per molti altri versi ritrovato. Infatti dalle nostre indagini risulta che molte persone hanno ritrovato delle emozioni, sensazioni, relazioni a cui con questo ritmo frenetico non eravamo più abituati. Quindi certamente qualcosa di positivo è stato riscoperto. Adesso è evidente che se però questo si trasforma nella paura di uscire può diventare un qualcosa di negativo, perché è evidente che l'equilibrio diventa importante. Uscire con prudenza è necessario, perché ancora non siamo usciti fuori completamente da questa situazione, però riprendere, o perlomeno che sia comunque una scelta serena di scegliersi un tempo più lento di vita, non dettata dalla paura e dall'angoscia che là fuori c'è qualcosa che ci fa male. Ecco, bisogna capire la qualità di queste scelte, per cui possono essere più o meno positive. Non si può dare un giudizio generalizzato, se non, certo, ripeto, sul senso della misura. Perché se io ne dica. No, volevo segnalare agli ascoltatori, se vogliono intervenire c'è l'800 24 00 24, se vogliono dire la loro, anche come l'hanno vissuta banalmente. Che impatto ha avuto, Lazzari, il lockdown sugli italiani, dalla vostra percezione, dal vostro osservatorio naturalmente? Ha avuto due tipi di impatto. In molte situazioni, in molte famiglie dove c'erano, diciamo, una base più solida e degli equilibri più positivi, addirittura in molti casi, come abbiamo detto, ha migliorato queste situazioni. In molti altri casi è un po' come una tempesta che nel mare porta a galla quello che c'è sotto, in molti altri casi invece ha determinato degli indici di disagio che noi abbiamo registrato in una misura mai presente nel nostro paese. Siamo arrivati al 43% di persone che hanno dichiarato la presenza di un disagio psicologico significativo. Sono cifre a cui noi non abbiamo mai visto, e questo evidentemente richiede poi, come dire, l'attivazione anche di misure, come è stato fatto per le patologie fisiche, anche per dare aiuto a queste forme di disagio così significative e che, se trascurate, possono in alcuni casi trasformarsi in disturbi e in problemi più importanti. Maria. Senta Lazzari, alcune aziende hanno inserito al momento del ritorno al lavoro in presenza o da remoto la figura dello psicologo. Sì. Lei suggerisce che questa figura, che in alcune scuole già c'è ma non in tutte, sia assolutamente obbligatoria quando a settembre, noi ci auguriamo, gli studenti italiani di ogni ordine e grado torneranno a scuola? Perché uno dei problemi è anche quello dei bambini e adolescenti che per 3 mesi non hanno avuto una grande relazione se non con i fratelli, chi ce l'ha? Guardi, su questo tema della psicologia nella scuola in Italia siamo in grande ritardo, perché esistono delle esperienze in giro decise dalle singole scuole, ma non c'è nessuna normativa nazionale da questo punto di vista. E noi è diverso tempo che la invochiamo, perché quello è un luogo di prevenzione importantissima, perché poi i disagi e i problemi in quella comunità educante che è la scuola chiaramente emergono, e si può fare tanto, perché sono età in cui gli interventi hanno, diciamo, un impatto molto importante. In questo caso a maggior ragione noi abbiamo presentato varie proposte anche alla ministra Azzolina in queste settimane, e noi speriamo che da questo punto di vista il governo, man mano che si passerà dall'emergenza alla ripartenza, metta dei provvedimenti che consentano in questo momento di introdurre quei cambiamenti che dovevano essere fatti da tempo, che non sono stati fatti e che adesso effettivamente, come lei giustamente dice, ne avremo molto bisogno, perché anche la scuola non si sa bene come si rimodulerà, e anche gli insegnanti hanno indubbiamente in questo momento una situazione piuttosto particolare. Quindi prevenire e intervenire in queste età così significative è un grande aiuto che si può dare ai bambini e ai ragazzi, ai docenti, ma aggiungerei anche alle famiglie. Ancora ascoltatori che ci scrivono, qualcuno dice: io non sto bene dopo il lockdown, forse fermandomi ho avuto occasione di guardare la mia vita e valutare tante cose che non mi sono piaciute, quindi anche una sorta di momento come uno spazio di riflessione. Altri che dicono: siamo stati tutti colpiti dalla sindrome della capanna. Lazzari, vorrei rimanere sul tema degli adolescenti, sempre dal vostro osservatorio, adolescenti e bambini, sempre dal vostro osservatorio, come l'hanno vissuta questo ampio gruppo che possiamo definire legalmente minorenni e che però in realtà comprende fasce di popolazione molto diverse, con esigenze diverse? Prego. È un problema questo un po' sommerso, nel senso che i bambini hanno la caratteristica di non manifestare, se non in maniera spesso molto indiretta e anche nel tempo, il loro disagio. Quindi noi abbiamo dato diversi consigli ai genitori di porsi in ascolto, di non drammatizzare, per cercare di essere aiuto ai loro figli. Però questo è un tema che non va drammatizzato, ma sicuramente c'è. Quindi un'attenzione particolare da questo punto di vista va data. Peraltro i livelli essenziali di assistenza prevederebbero che il servizio pubblico dovrebbe dare aiuto rispetto ai temi dei minori, anche se poi il personale in questo caso non c'è. Questo è un discorso. L'adolescenza è un'età in cui in effetti il disagio si può manifestare anche con forme di ribellione. Devo dire che le notizie che noi abbiamo di fondo sono notizie di una risposta responsabile da parte dei giovani e degli adolescenti, a parte quelle immagini della movida che abbiamo visto tutti, ma in linea generale durante il lockdown quello che ci è stato riferito è di un atteggiamento abbastanza maturo e responsabile. Ah sì, ma erano tutti quarantenni, guardi che erano tutti 30-40enni quelli che erano fuori a bere, Lazzari. Non erano né 16enni né 18enni, esatto, né niente di tutto, esatto, questo, insomma. Esatto, per questo ho detto un atteggiamento abbastanza responsabile, anche se bisognerà capire, perché questo è stato un grande esperimento di psicologia sociale, quello che abbiamo fatto, e quindi dovremmo noi anche adesso stare in ascolto, come stiamo facendo, con tutta una serie di ricerche, di iniziative, per capire che tipo di impatto, perché gli impatti di queste situazioni non si vedono immediatamente, è come il guerriero in battaglia che se viene ferito neanche se ne accorge, perché l'adrenalina è molto alta e perché ci sono esigenze prioritarie, e poi finita la battaglia emerge la fatica psicologica di questa situazione, e per questo noi immaginiamo che adesso sarà una fase molto delicata da questo punto di vista. Lei ha fatto proprio un esempio calzante, così come i reduci dalle guerre hanno spesso dei traumi che non riescono a superare, che durano tutta la vita, così potrebbero esserci dei reduci da Covid-19 con dei problemi psicologici. Le chiedo, ma chi, oltre al fatto di essere rimasto chiuso, ora che si riapre tutto, fronteggia un grave problema economico, perché magari ha perso il lavoro o perché gliel'hanno ridimensionato, per tanti motivi. Ecco, in questi casi a chi può rivolgersi? Perché certo pagarsi uno psicologo privato non può, no, perché non ha i fondi. Accedere a uno psicologo della ASL è complicato. Che cosa si può fare per queste persone, dottor Lazzari? Guardi, io ho scritto un po' di giorni fa a tutte le parti sociali, quelle che hanno firmato gli accordi con il governo sui protocolli per la ripartenza, per suggerire loro di creare degli sportelli di ascolto dal punto di vista psicologico. Anche in Italia siamo un paese di aziende anche piccole, dove che non hanno possibilità di questo tipo. Quindi ci sarebbe necessità che a livello regionale o provinciale le associazioni del commercio, dell'impresa, diano loro dei punti. Questo servizio, dice lei. Questo servizio, certo, dice questo lei. Questo servizio in forma associata, anche potenziando quei servizi per la ricollocazione. In Italia ci sono i servizi per il lavoro, le agenzie, che hanno lo scopo di accompagnare le persone che perdono il lavoro verso nuove forme occupazionali. Anche lì andrebbero potenziate, perché dare nuove risorse psicologiche alle persone, oltre che opportunità, diciamo, concrete, in questo momento diventa fondamentale, perché una persona depressa difficilmente va a cercare un nuovo lavoro. Abbiamo ancora un minuto, abbiamo il tempo di sentire un'ascoltatrice che ha un nome particolare, tra l'altro Eleonisa, ci chiama da Torino, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua, molto brevemente se può. Sì, sì, ma io sono stata benissimo, mi sembrava di essere nel paradiso terrestre, perché l'aria era profumata, non c'erano rumori di macchine, di urli, di gente che urla tutta la notte perché va a fare la movida, non c'era movimento, per cui per me è stata una parentesi splendida. E adesso purtroppo è stato il ritorno al solito, con tutto il traffico, perciò io sono vissuta benissimo e non capisco chi abbia bisogno di psichiatri o di psicologi. Vabbè. Signora mia, ognuno è diverso, grazie Eleonisa. Però sono in tanti a pensarla come Eleonisa. Eleonisa, sì, sono tanti come lei, però insomma si torna alla vita, ragazzi, è bello anche questo. Grazie David Lazzari. Maria, ci sentiamo lunedì alle 8:20. Ci sentiamo lunedì e chi vuole ci sente domenica con Nessuno è Perfetta. Parleremo di gratitudine. Certo, noi diamo la linea GR24 e ci risentiamo noi, anche noi lunedì, però alle 6:30. Ciao!